si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buona domenica, ben ritrovati cari ascoltatori. Quinta puntata, si può fare. Noi diciamo contro il bla bla bla della politica e dell'economia. Cerchiamo e raccontiamo le storie delle persone che si rimboccano le maniche e ci insegnano che si può fare. Per esempio, alcune notizie di questa settimana. Andiamo a Como, tratto dalla provincia, il quotidiano online. Sorpresa, le bollette possono diminuire. Due piccole storie. Ad Albese, la raccolta differenziata ha dato i suoi frutti. La vendita della carta ha portato un introito maggiore rispetto all'anno scorso, il che consentirà di aggiustare al ribasso la tassa a carico dei cittadini. E poi a Olgiate, Comasco, la diminuzione dei costi per la depurazione dell'acqua dovrebbe portare a un risparmio significativo per il comune. E tra poco sentiremo come anche ancora possono diminuire le bollette quando si fa la raccolta differenziata. Altra notizia, andiamo a Vicenza, Corriere del Veneto, dal broccolo alla patata nasce la Super Confraternita, 61 prodotti DOC diffusi nel Vicentino, dal broccolo fiolaro di Creazzo alle patate di Rozzo sull'altopiano di Asiago, dai piselli di Lumignano alla soppressa di Valli del Pasubio, tutti i prodotti che i ristoratori di questa zona aderenti alla Confartigianato hanno deciso di marchiare con un bollino fatto così, un mantello e uno stemma, un gatto con il cappello da chef, dando vita ad una magnifica confraternita, insomma è un modo anche questo per rilanciare cibi DOC a chilometri zero. Altra notizia tratta dal sito buonenotizie.it, questa è una cosa pratica, assicurazione dell'auto, c'è un'applicazione che ti ricorda quando pagare tutte le scadenze, l'applicazione si può scaricare dal Apple Store di Apple, si chiama iAutomobile e permette di tenere sotto controllo tutte le informazioni riguardanti la propria automobile, dalla scadenza della patente al rinnovo dell'assicurazione auto, passando per quella del bollo e anche le scadenze insidiosissime delle date della revisione dell'auto. Tra poco altre storie, intanto noi aspettiamo anche le vostre, segnalatecele sul profilo Facebook del programma Si può fare trattino Radio 24, alla nostra mail si può fare radio24.it e poi tra poco vi sentiremo anche in diretta sui temi di oggi, ma vi aspettiamo sulla segreteria telefonica all'828 12 12 ogni settimana per il nostro concorso, le ricette per salvare l'Italia in un minuto, lavoro, tasse, energia, ambiente, solidarietà, legalità, tutti i temi che trattiamo normalmente, aspettiamo i vostri suggerimenti. La settimana scorsa per esempio abbiamo parlato anche della difficoltà a muoversi in mezzo alla neve. Dunque, io sono una pensionata di Roma, ho ricevuto una lettera dall'EMPDEP dove mi dice che devo riempire un modulo che devo andare a prendere giù alla sede di Quinta Valle, ho 76 anni e con il tempo che fa andare giù a via Quinta Valle dietro Cinecittà è impossibile, e questo lo devo fare perché devo comunicare dove voglio farmi accreditare la pensione e lo devo fare entro il 15 di febbraio, io l'ho ricevuto in questi giorni, io volevo dire a questi signori: ma signori miei, insieme alla lettera che mi avete mandato, due pezzi di carta, ci potete mettere anche il terzo? E mettere un foglio, un fax dove uno poteva in breve tempo inviarvi quello che chiedete? Tutto qua. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Because 2 times 3 is 6, and 3 times 6 is 18, and the 18th letter in the alphabet is R. Yeah, we got 3 R's we're gonna talk about today. We gotta learn to reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Where's it? It's a magic. Riduci, riusa, ricicla, dice la canzone di Jack Johnson, poi diventata famosa per essere il jingle di una celebre compagnia telefonica, celebre almeno in Italia. Tutti stiamo correndo verso un futuro dove i rifiuti si riciclano e non si buttano. C'è chi va più veloce e c'è chi va più lento nella raccolta differenziata. Tra quelli che sembra che vadano velocissimi c'è per esempio un comune di 22.000 abitanti in provincia di Caserta, e per una volta una buona notizia viene dal sud, che nel mese di dicembre settembre scorso ha raddoppiato la propria percentuale di raccolta differenziata, salendo quasi fino al 70%, secondo migliore comune della provincia. Parliamo di Sessa Aurunca e ne parliamo con il sindaco Luigi Tomasino. Buongiorno. Buongiorno. Allora, prima di tutto le chiedo come avete fatto a fare questo balzo in avanti. Avete truccato i dati oppure è tutto vero? No, è tutto vero, anche perché è controllato dalla provincia, quindi sono dati reali, ecco. Ma niente di miracoloso, però una buona disposizione da parte dei cittadini, sì, per l'estensione del porta a porta in tutto il territorio e un controllo che la differenziata venisse fatta come si deve. Questa è la ricetta, niente di magico. Quindi avete puntato sul porta a porta, se ho capito, certo, bene. Anche perché lei deve sapere che il nostro è un comune particolare, perché a fronte di un numero limitato di abitanti, 22.000, c'è un'estensione di quasi 164 km quadrati, quindi fra i primi 4-5 comuni d'Italia come estensione. Qui ci sono delle difficoltà enormi, perché bisogna servire tutto il territorio, quindi spese, camion e tutto il resto, a fronte di un ritorno economico limitato per il numero di abitanti. Ecco, però voi diciamo avete raggiunto quasi il 70%, certo, a dicembre, adesso però questo obiettivo va raggiunto, perché invece nella media annua siete un po' più bassi. Riuscirete a mantenerlo? Io penso di sì. Noi in effetti noi abbiamo affrontato il problema negli ultimi mesi, perché noi siamo stati eletti nell'ultimo semestre. Sì. Insomma, lei si è messo di buzzo buono per, certo, per farlo, per risolverlo questo problema. Con un po' di buona volontà e nient'altro. Il problema è questo: noi abbiamo una zona turistica che è il Baio di Umizia, che d'estate qualche problemino di stabilità di dati ce lo potrebbe dare, ma siamo fiduciosi di riuscire a portarlo fino in fondo. Insomma, il suo messaggio è: si può fare anche in pochi mesi, si può dare una svolta e quasi raddoppiare il livello di raccolta differenziata. Con l'apporto della buona volontà dei cittadini, è chiaro. Questo è sempre un dato fondamentale. Vabbè, insomma, noi ci interessava semplicemente capire se, prima di tutto, se i dati erano veri. Lei ci dice che sì, è così. Perfettamente veri. Quindi, insomma, questo passo in avanti l'avete fatto. Siete un piccolo comune, però, insomma, le buone notizie poi si accumulano e ci portano delle buone pratiche più in generale. Grazie allora al sindaco Luigi Tomasino, sindaco di Sessa Aurunca. Allora, questo è anche un po' il tema della puntata di oggi. Vi chiediamo, tra l'altro, come va da voi nelle vostre città, nelle vostre località, la raccolta differenziata, perché sappiamo benissimo che oltre a carta, plastica, vetro, che sono più facili da riciclare, poi ci sono gli elettrodomestici rotti, i pezzi d'arredamento, le lampadine, le vernici, le reti di materasso. Insomma, raccontateci come va da voi con insomma, questa pratica dei rifiuti zero. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Insomma, abbiamo sentito la storia di Sessa Aurunca, un piccolo comune in provincia di Caserta che ha raddoppiato negli ultimi mesi la raccolta differenziata dei rifiuti. Una piccola storia, però, che cosa succede aumentando al massimo la differenziata? Ce lo spiega e ce lo illustra la prossima storia, perché insomma, si può vivere a rifiuti zero non soltanto a San Francisco, città di cui si parla molto in questo ambito ultimamente, ma anche in Italia. Ce lo insegnano a Reggio Emilia, dove qualche giorno fa la provincia ha deliberato lo spegnimento dell'inceneritore di Cavazzoli, un impianto, loro dicono, era vecchio, andava chiuso, ma che adesso si sono resi conto semplicemente non gli serve più, è diventato inutile. Perché? Proprio perché la raccolta differenziata è sempre più alta e siamo quindi praticamente ai rifiuti zero. Io saluto l'assessore provinciale all'ambiente di Reggio Emilia, Mirko Tutino, buongiorno. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Allora, ci spieghi che fine faranno i vostri rifiuti se avete deciso di fare a meno dell'inceneritore. Sì, la provincia di Reggio Emilia e di comuni hanno pensato un piano per raggiungere nell'arco di 3 anni il 67% di raccolta differenziata. La provincia di Reggio è una provincia con 500.000 di abitanti, quindi un sistema complesso, industriale, molti residenti, pianura, Appennino, e dal 2015 attivare il trattamento meccanico biologico, cioè un impianto capace di asciugare i rifiuti, ridurne il volume, recuperare materia dal rifiuto ed evitare quindi la costruzione di un nuovo termovalorizzatore. Quindi, insomma, l'obiettivo, ce lo ripeta, è raggiungere un livello di raccolta differenziata di quasi il 70%. Sì, 67,1, sì. Poi se i reggiani saranno bravi potremmo arrivare anche al 70. In più questo sistema di cui ci ha appena parlato, che consente di limitare ancora di più l'impatto di quelli che sono i rifiuti restanti, fino a non avere più bisogno di un inceneritore in assoluto, forse no. Però lei mi diceva, quando abbiamo concordato l'intervista, lei mi diceva, adesso ce lo spiega, che il punto è, se anche gli altri comuni faranno come voi, davvero allora in Emilia-Romagna, per esempio, potrà esserci un solo o due inceneritori che serviranno tutti i comuni, perché avrete tutte piccolissime quote di rifiuti da devolvere praticamente a qualche inceneritore, è così? Esattamente, è così. Consideri che il nostro piano parla di 4 anni, quindi non fra 10 o 20 anni, perché nell'arco di 10 o 20 anni speriamo di arrivare a zero di quantità di rifiuti da mandare in incenerimento. Fra 4 anni noi saremo in grado di mandare in incenerimento circa 25.000 tonnellate, che è il 5% dei rifiuti complessivi prodotti nel territorio della provincia di Reggio Emilia. Se tutte le province dell'Emilia-Romagna adottassero la stessa politica, la stessa strategia, si potrebbero ridurre già fra 4 anni a metà e forse ad un terzo i termovalorizzatori presenti nel nostro territorio. Cioè tra 4 anni voi solo il 5% dei rifiuti darete insomma all'inceneritore o in discarica, e quindi è una percentuale bassissima. Se i comuni, non so, di Roma o Napoli facessero quello che state per fare voi, sarebbe una vera rivoluzione. Sì, è una rivoluzione, lo è stata anche qua arrivare a questo risultato. Solamente nel 2003 il piano provinciale di gestione rifiuti ipotizzava la realizzazione di un nuovo termovalorizzatore. In realtà abbiamo visto che i dati di raccolta differenziata erano molto più positivi di quelli previsti nel 2003 e abbiamo verificato che non ci sarebbe stato nemmeno la convenienza a realizzare un inceneritore, perché un inceneritore è un investimento comunque che supera i 120 o i 150 milioni di euro per le dimensioni di un territorio ampio come il nostro. Il trattamento meccanico biologico costerà circa un terzo di questa cifra. E voi avete investito però anche per far sì che la soglia di raccolta differenziata salisse così tanto. Che consiglio vuol dare alle altre amministrazioni comunali? Sì, insomma, se ne hanno bisogno, ma mi sembra che ne avrebbero, insomma, in altre città bisogno di un consiglio da voi. L'elemento forte che abbiamo visto aver funzionato davvero nel rapporto con i comuni è la solidarietà tra territori. Cioè nel momento in cui chi adotta un sistema avanzato di raccolta differenziata come il porta a porta non se lo deve pagare da solo, ma gli altri territori riconoscono a quel comune il dare un contributo al miglioramento complessivo del sistema, ecco, in quel momento scatta una molla, scatta l'idea che bisogna tutti concorrere al miglioramento. Ed è così che i comuni di tutto il sistema, anche quelli dell'Appennino, dove le modalità di raccolta non potevano essere altrettanto avanzate, hanno accettato di contribuire a un sistema che nella media complessiva arriverà al 67, ma chiaramente avrà delle realtà con l'80 o il 75% di raccolta differenziata. Senta, si parla tanto di San Francisco, voi siete ispirati a qualche modello o è tutta farina del sacco emiliano? Beh, intanto ogni modello, ogni territorio ha la sua storia. Reggio Emilia, per esempio, ha due caratteristiche fondamentali: senso civico, perché ha prodotto anche con delle raccolte stradali degli elevati livelli di raccolta differenziata, anche se abbiamo rilevato che sull'organico, sulla parte del rifiuto domestico, quei risultati non si riescono ad avere se non si adotta anche il porta a porta, ma soprattutto un alto livello di assimilazione, cioè i rifiuti delle imprese sono gestiti insieme al sistema urbano. Questo consente un massimo recupero della materia. E noi non ci siamo ispirati a nessuno, perché è stato il frutto delle esperienze di questi anni. Nella scelta però della tecnologia del trattamento meccanico biologico abbiamo guardato a Barcellona, che ha un modello e un impianto molto avanzato proprio per il trattamento dei rifiuti. Va bene, insomma, grazie assessore Mirko Tutino, assessore all'ambiente della provincia di Reggio Emilia, per averci raccontato questa storia. Speriamo che altri l'abbiano ascoltata, l'abbiano sentita e la facciano loro. Insomma, non possiamo pretendere che l'Italia sia tutta così, ma insomma quasi. Buon lavoro, grazie. Grazie a lei e buona domenica a tutti. Ma voi che siete a Rimini, tra i gelati e le bandiere, non fate più scommesse sulla figlia del droghiere. Thank you. E magari tra poco facciamo qualche chiamata a qualche cittadino di Sessaurunca o anche di Reggio Emilia per capire se si sono accorti che la raccolta differenziata è salita alle stelle, soprattutto a Sessaurunca, direi, in provincia di Caserta, dove la notizia è più recente. Ma intanto l'omaggio musicale di Fabrizio De André ci ha portato a Rimini, perché la prossima storia ci porta proprio nella capitale della Romagna, ricca di alberghi, soprattutto attivi nella stagione estiva. In inverno ci sono meno turisti, ecco che l'albergo Britannia apre le sue porte nei giorni più freddi come questi ai senza tetto della città, che ne hanno bisogno. Un gesto di solidarietà importante che viene compiuto, tra l'altro non è il primo anno, adesso ci spiegherà da quanto tempo e come lo sta realizzando la signora Antonietta, che è la titolare dell'albergo Britannia. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti. Insomma, un gesto di solidarietà, io ho detto che sicuramente fa del bene alle persone che lo ricevono, ma credo di capire, avendo parlato con lei, che fa molto bene anche a chi lo compie, cioè a lei. Certo, forse fa più bene a me che a loro, perché io non lo so se siete a conoscenza, ho perso un figlio nel 2003 e poi da un sogno nel 2006. La disperazione più totale, naturalmente, quando uno perde un figlio non ha più voglia di vivere, e quella notte che ho sognato mio figlio ho detto: Osman, amore mio, voglio venire con te perché io non ce la faccio più a stare qua. E lui mi ha risposto: mamma, no, perché io sto bene dove sono e tu puoi aiutare tanta gente. Era il 25 di gennaio del 2006. Quindi dopo questo sogno mi sono dovuta alzare e uscire fuori, perché proprio mi sembrava che il cuore mi scoppiasse, e pensavo continuamente a che cosa mi volesse dire mio figlio, il messaggio, cioè aiutare la gente, ma come? Non capivo. Allora, uscendo di casa, c'era tanta neve come adesso ed era freddissimo, e vado in albergo. Era prestissimo, la mattina alle 5. E quindi era freddissimo, e io continuavo a camminare a dire che freddo, e pensavo al messaggio del sogno. Quando ho aperto la porta dell'albergo e sono entrata, mi ha invaso il caldo, il tepore proprio dell'interno, e ho detto: ecco cosa posso fare. Lì ha capito. Ospitare le persone che non sanno dove andare a dormire con questo freddo. Mm. E lì è stato chiaro il messaggio, e così ho cercato di attivarmi e mettere in atto il prima possibile di questa. Senta, cosa. Quante persone adesso, non so se anche adesso in questo momento lei sta ospitando? Adesso no, sono state da una settimana, sì. Mercoledì a mercoledì erano 85 persone, e quindi erano anche tanti. La prima sera 30 persone, la seconda 60, e poi siamo aumentati di numero vertiginosamente, perché veramente emergenza, c'è bisogno di caldo, di un tetto da ripararsi a queste persone, che purtroppo quando si sta bene non si pensa assolutamente che ci siano delle persone che sono fuori a dormire, al ghiaccio, al freddo, alle intemperie. Però ce ne sono tanti, loro sono delle persone che non chiedono niente. E però non deve essere neanche facile aprire le porte di casa, perché è quello che lei in pratica fa a questo mondo dei senza tetto. Insomma, non è sì. un gesto sì, di solidarietà che può sembrare facile. Non è facile, però devo dire che forse quando si parla con la voce del cuore, anche i più umili o i meno umili riescono a capire. Io do i messaggi col mio cuore, quindi. Senta, ma quello che lei ha fatto breccia a Rimini, oppure siete l'unico albergo che fa questa cosa durante l'inverno? Io sono l'unica, credo, che faccio questo. Perché non è riuscita ancora a tirarsi dietro nessuno. La prossima missione, signora Antonietta, potrebbe essere quella di fare scuola in qualche modo, no? E di convincere magari un altro albergo, e poi un altro ancora, a compiere un gesto come questo. Beh, noi intanto la ringraziamo, ci ha raccontato la sua storia, ci ha aperto in qualche modo anche il cuore e ci ha parlato di come una tragedia personale, come la perdita di un figlio, abbia aumentato la sua sensibilità, l'abbia spinta a questo gesto di solidarietà. Però io dico, anche chi non ha vissuto una sofferenza come la sua, forse può trarre spunto per capire che si può vivere ancora meglio compiendo gesti di solidarietà, che poi fanno bene anche a chi li riceve. Grazie alla signora Antonietta. Adesso ci fermiamo perché c'è il giornale radio, siamo anche in ritardo, ritorniamo tra pochissimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare, ben ritrovati, vi ricordo i nostri contatti dove potete segnalarci le vostre storie, la pagina Facebook si può fare, trattino Radio 24, la mail si può fare @radio24.it, la segreteria telefonica dove chiamare in settimana 828 12 12. Oggi invece in diretta all'824 00 24 vi chiediamo come va da voi con la raccolta differenziata, a volte sono i piccoli comuni come abbiamo raccontato, Sessa Aurunca, provincia di Caserta, andare meglio, a volte invece le grandi città come Milano che batte sicuramente Roma su questo. Da voi come va? Abbiamo in linea il primo ascoltatore di oggi che è Massimiliano, che ci chiama da Rovato in provincia di Brescia. Buongiorno, che ci racconta? Buongiorno, buongiorno signori. Io porto la piccola esperienza di un comune della Franciacorta come tanti altri in Franciacorta che stanno diffondendo in maniera estremamente capillare la raccolta, sia quella porta a porta e nelle isole ecologiche la possibilità di smaltire elettrodomestici di piccole e grandi dimensioni, lampadine, batterie, batterie per auto, oli esausti e materiale comunque in genere che in genere viene buttato nell'indifferenziato. Dal mio punto di vista è estremamente comodo, anche perché mi ha eliminato il dover portare le borsine dello sporco ai cassonetti, ha ripulito in buona sostanza anche il paese dalla presenza dei cassonetti che in estate erano pure malodoranti, per cui il giudizio è fortemente positivo. Oltretutto in Franciacorta, da dati del gestore, ci sono comuni che arrivano al 78% di differenziazione. Bene, è proprio questo che vogliamo sentirci dire e essere così invogliati a fare la raccolta differenziata e a credere che si può fare. Grazie dalla provincia di Brescia. Adesso vediamo, facciamo un piccolo test, proviamo a sentire qualche abitante di Sessa Aurunca, se riusciamo a chiamarlo in diretta, per vedere se si sono accorti di questo incremento che c'è stato nella raccolta differenziata nel loro piccolo paese, dove sono passati quasi al 70% in pochi mesi. No, non riusciamo a chiamare in questo momento. Allora sentiamo il prossimo ascoltatore, che è Salvatore da Giuliano. Siamo a Napoli, zona difficilina. Buongiorno. Buongiorno a lei. Che ci racconta? Posso parlare? Certo. Praticamente a Giuliano la raccolta della spazzatura è un poco particolare, insomma, più o meno la si qualche volta, qualche altra volta no. C'era anche qualche centro per il recupero di materiali ingombranti, dopodiché insomma sono stati tutti chiusi. Qua la raccolta di terra non si fa, le bollette arrivano e sono anche salate, insomma, la bolletta è di 636 euro all'anno per una raccolta che è così scadente. Vabbè, dovete chiedere ai vostri amministratori di fare qualcosa, assolutamente, perché... Sì, ma il problema non è quello di chiedere, perché se lo fa lo si chiede pure, ma non lo si fa. Ecco perché insomma sono preoccupato di vedere che comunque insomma ci sono vedrà che a forza di essere circondati da esempi virtuosi come per esempio questi della provincia di Caserta, ma se ne potrebbero citare altri mille, abbiamo scelto questo semplicemente perché bisognava scegliere. Grazie comunque a Salvatore che ci chiamava dalla provincia di Napoli. Proviamo, vediamo Sessa Aurunca. Ok, abbiamo in linea un abitante di Sessa Aurunca. Pronto? Pronto, buongiorno, salve, in diretta su Radio 24, qua sono Alessio, no, Maurizio. Guardi, sì. No, non le chiediamo di comprare nulla, facciamo solo un piccolo test sulla raccolta differenziata nel suo comune. Siccome abbiamo intervistato il sindaco, c'è stato un aumento, voi vi siete accorti che è aumentata la raccolta differenziata dei rifiuti lì da voi? No, è uguale. È uguale, ma diciamo è soddisfacente secondo lei o si può fare di più? Cioè, lei per lo meno sembra, poi non lo sappiamo. Cioè lei ricicla comunque la carta, il vetro, sì, la plastica. Sì. Beh, insomma, questo volevamo sentirci dire. Grazie, vabbè, grazie. Prego. Buona giornata. Insomma, il test è diciamo un 50-50, perché la fanno, la continuano a fare, però questo grosso incremento per ora non viene registrato. Va bene, magari sentiamo più avanti un altro abitante di Sessa Aurunca. Intanto adesso, tra poco, il prossimo ospite. Bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him and yours. Arriva anche in Italia la campagna lanciata dal Times di Londra a favore della bicicletta, il mezzo di trasporto più sano che c'è, forse anche uno dei più antichi del mondo, chi lo sa, che però soffre di una contraddizione lampante. È il mezzo più ecologico, però è anche quello con la mortalità maggiore. Dispiace dirlo, ma è così, un fatto intollerabile. L'appello, partito dal Times, prestigioso quotidiano inglese, vuole sensibilizzare tutti a un maggiore rispetto nelle nostre città rispetto dei ciclisti, indicando 8 priorità. Ci sono, ne leggo alcune: indicare gli incroci più pericolosi, condurre un'indagine nazionale per determinare quante persone vanno in bicicletta e fare così dei censimenti, destinare il 2% del budget dei trasporti alla creazione di piste ciclabili e via discorrendo. Ne vogliamo parlare con uno che di bicicletta se ne intende, il presidente della FIAB, la Federazione Italiana Amici della Bicicletta in Italia, Antonio Dalla Venezia. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, non che ci volesse il Times per ricordarci gli aspetti positivi della bicicletta che vanno tutelati, però, perché anche da noi ci sono delle buone pratiche, lei ce lo ricorderà. Però questo serve a risollevare l'attenzione su questo tema, un tema importante. Perché? Ce lo spieghi? Beh, serve risollevare l'attenzione perché non se ne sta occupando nessuno in particolare. Noi soffriamo di una carenza a livello governativo ormai da sempre. Basti pensare che l'ultima legge di finanziamento delle piste ciclabili è del 1999. Quindi bene hanno fatto gli amici del Time e i blogger che hanno seguito questa cosa, perché si ricomincia a parlare di bicicletta come una delle soluzioni ai problemi del traffico urbano nelle nostre città. Tra l'altro io vorrei dire che la bicicletta fa bene non solo al traffico, fa bene alla salute perché fa dimagrire, allo spirito perché ci si sente liberi quando si va in giro, no? Diciamolo anche queste cose. No, certo, i dati positivi sono molti, quello sanitario, quello del traffico, l'inquinamento, anche lo spazio, anche che non si... anche il portafoglio. Che in questo momento non va male. Ecco, l'Italia ultimamente mi sembra di vedere, sta recuperando però un po' posizioni, perché per esempio il bike sharing ormai in quasi tutte le città, in molte città, una volta c'era solo Ferrara, io ricordo, la città delle biciclette, adesso invece dalla Venezia ci rincuori da questo punto di vista. Beh, bike sharing ormai è quasi in 50 città italiane, quindi questo strumento di bici collettiva è una cosa che sta funzionando abbastanza, specialmente in alcune città metropolitane, che è un po' la soluzione ad alcuni mali. Però ci sono molte esperienze positive anche in altri campi, basti pensare ai bimbi a scuola nella città di Reggio Emilia, la maggior parte dei bambini delle primarie in quella città vanno a scuola in bicicletta accompagnati da volontari e da genitori. Oppure situazioni in cui, come Bolzano, ormai gli spostamenti in bicicletta hanno superato quelli dell'autovettura privata. Quindi ci sono buone pratiche, sì. Manca una regia nazionale, manca un coordinamento, manca l'attenzione generale e le risorse. Se lei dovesse indicare proprio, qui ci sono 8 priorità in questo manifesto che è stato rilanciato anche in Italia, se lei dovesse fare sua una priorità in Italia. Ma la mia priorità è quella di un servizio nazionale della bicicletta presso un qualche ministero, così come succede in molti altri paesi europei. Quindi cominciare proprio a trattare la bicicletta come dalla testa, come un fatto serio, insomma, non come un fatto residuale. Non come un fatto residuale o occasionale, certo. Va bene, grazie allora Antonio Dalla Venezia, presidente della FIAB, abbiamo parlato e abbiamo così dato anche il nostro contributo a questo appello partito dal Times di Londra per salvare i ciclisti. Tra poco invece un altro gradito ospite che ha sempre a che fare con la bicicletta in qualche modo. Già, perché parliamo di carnevale, anche il carnevale fa i conti con il rispetto dell'ambiente sempre di più. Di iniziative di questo senso ce ne sono tante, dal carnevale ecologico di Putignano a quello di Venezia, dove si segnalano le iniziative del consorzio Ecolamp. A Imola invece giunge, di questo parliamo, alla 15ª edizione la sfilata dei fantaveicoli. Possono partecipare tutti i carri allegorici purché mossi da energia rinnovabile. Abbiamo appena parlato della bicicletta, immagino che la parte del padrone la faranno proprio in mezzi a spinta umana su ruote, ma forse anche c'è dell'altro. Ne parliamo e lo chiediamo a Walter Galavotti, che è l'assessore alla cultura e al turismo di Imola. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, intanto so che siete in scadenza di iscrizioni. Quanti veicoli avete iscritto quest'anno? Che fra l'altro sarà un'edizione un po' gelata. Siamo a una quarantina, mi pare. e naturalmente ci sono sempre le ultime, gli ultimi arrivi, gli ultimi. Anche perché tutti stanno studiando, lei può immaginare, con molta attenzione l'evoluzione meteorologica. Eh no? Sì, quindi... perché fra l'altro se qualcuno puntava, che ne so, sulla luce del sole per fare qualche meccanismo fotovoltaico, mi sa che... No, qui bisogna pedalare. Quest'anno va male perché parte, c'è il gelo, ci sono le nuvole, sì. D'altra parte il grosso della sfilata, sia sì. per i gruppi concorrenti che per i gruppi ospiti, è... dato da evoluzioni della meccanica delle biciclette. Infatti non avevamo dubbi. Ma... Però ci racconti in questi anni, insomma, so che siete alla 15ª edizione, qual è il veicolo più strano o più ingegnoso? So che c'è anche un premio ogni anno al veicolo più ingegnoso che lei ha visto sfilare, insomma, lì a Imola. Sì, ci sono diversi premi. Quello per il fantaveicolo in assoluto più importante, quello per il più originale, per un premio particolare che consiste in una bicicletta di alluminio tutto ottenuto da materiale da riciclo, molto bella tra l'altro, per chi ha saputo riciclare meglio materiali già utilizzati. C'è il concorso per le scuole, quello per i centri sociali, quindi c'è tutta una serie. Ma è difficile, c'è una galleria fotografica molto importante sul nostro sito, anche perché c'è un concorso fotografico legato alla manifestazione. Non so, ricordo per esempio questo enorme fantaveicolo fatto tutto da bottiglie di plastica riutilizzate per formare una cosa anche bellissima dal punto di vista estetico, perché vengono anche degli effetti luminosi particolari, no? E certo, la luce che filtra attraverso la plastica colorata. Sì, quindi, perché c'è anche una dimensione estetica. Praticamente si tratta di veicoli, diciamo, che sono forme anche di invenzione, di ingegneria del movimento, ma certo. Soprattutto è un modo per fare delle sfilate dei carri che restano poi l'obiettivo, quello, il divertimento, il carro allegorico, senza andare a consumare nient'altro che non siano oggetti riciclabili in qualche modo. Quindi è questo un po' il messaggio che voi mandate anche in questo carnevale gelato. Certo, è una mescolanza di alcuni temi, almeno nel nostro territorio, molto forti, che sono uno quello dell'inventiva meccanica, del bricolage, del fai da te. Noi siamo uno dei comparti meccanici più importanti della regione, allora ci sono questi straordinari inventori. Tra l'altro Imola è anche la terra dei motori, perché sì, vicino c'è l'autodromo, certo, farà impressione vedere circolare questi mezzi. Partiamo dall'autodromo, non c'è contraddizione, sì. Perché c'è proprio questa passione innata degli imolesi per la meccanica, per il lavorare. Qui ogni pensionato ha un'officina che fa invidia ormai alla Maserati, no? Sì. E quindi c'è questo grande amore del bricolage, del lavoro, del brevetto, dell'invenzione. Insomma, tutte passioni che si fondono insieme. Mi dica quando quelle date del vostro carnevale, così invitiamo tutti a venirvi a trovare. Dunque, la data, io sono anche speranzoso, l'evoluzione del meteo mi conforta, sì. Che la prossima domenica, 19 febbraio, sì. È il momento clou. Sì, è il momento clou. C'è la sfilata. Che parte proprio dall'autodromo Enzo Dino Ferrari, attraverso questo bellissimo viale Dante, per arrivare in centro. Quindi insomma anche un sacco di suggestioni, non solo diciamo ecologiche, ma anche altre, la strada no, Ferrari, altre, l'autodromo. E va bene, insomma, grazie. Allora invitiamo tutti a venirvi a trovare al carnevale con la sfilata dei fantaveicoli di Imola. Grazie all'assessore Galavotti. Grazie, buon lavoro, insomma, buone pedalate, che dire. Facciamo le corna per adesso, perché il tempo evolve in positivo, ma il risultato è assicurato. Incrociamo le dita, grazie, buona giornata. Arrivederci, buona giornata anche a voi. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Oggi vi abbiamo chiesto di intervenire all'800 24 00 24 soprattutto sul tema della raccolta differenziata. Come va da voi? Tra l'altro c'è anche un sito www.thecleaners.it, tengono il conto dei gesti di buona volontà fatti dai cittadini. Hanno raccolto fino ad ora 89.322 chili di rifiuti abbandonati. E adesso abbiamo un ascoltatore velocissimo, Antonio da Napoli, perché siamo quasi in chiusura. Qual è che la storia che ci racconta? Antonio, buongiorno. Buongiorno a tutti i radioascoltatori, sì. Di 24 e anche a lei per la trasmissione. Niente, volevo soltanto semplicemente dire una cosa: io sono di Napoli, nel quartiere dei Colli Amini di Napoli, oltre ad altri quartieri che sono quelli di Barra e Ponticelli, svolgiamo da 3 anni la raccolta differenziata porta a porta, per cui 152.000 cittadini, che sono un bel numero, ogni giorno differenziano i propri rifiuti in organico, quindi in cartone e carta, in plastica, in vetro e in alluminio. I risultati sono eccellenti. Il nostro sindaco De Magistris addirittura nel quartiere nostro qualche mese fa è venuto e ha dimostrare a tutti i cittadini che con il compost che è stato fatto poi faremo anche degli ulteriori partiti al nostro quartiere. E insomma, da un quartiere, da una città difficile da questo punto di vista, sappiamo quanto Napoli sui rifiuti, un messaggio positivo. Grazie Antonio, sarà da approfondire questa sua segnalazione. Abbiamo un altro abitante di Sessaurunca per vedere come va il test sulla raccolta differenziata in provincia di Caserta. Sentiamo. Prima era finito un pareggio. Abbiamo sentito un cittadino che diceva sì, la raccolta la facciamo però. Pronto? Pronto, buongiorno, salve. Buongiorno, siamo in diretta su Radio 24. Io sono Alessio Maurizi. La disturbavo per questo. Volevo sapere se ci voleva dire come va con la raccolta differenziata lì da voi. Abbiamo intervistato il vostro sindaco, dice che sta andando molto meglio la raccolta, è raddoppiata negli ultimi mesi. Lei la fa la raccolta dei rifiuti? Sì, che la facciamo. Ah, ecco, vede, tutto, carta, vetro, plastica. Sì, tutto. Benissimo, ma c'è stato un aumento negli ultimi settimane? Rispetto a prima. Un attimo, ripasso mia figlia. No, attimo. va bene. La figlia, non credo che. Vabbè, fermiamoci qua. Comunque mi sembra che il test sia positivo. Non so se sono rimasti impressionati dall'intervento in diretta della radio che li va a cercare a casa loro per interessarsi a questo tema, oppure se è proprio la verità. Ma insomma, Sessaurunca, promossa. Adesso però vogliamo in chiusura avere un altro argomento di cui parlare. E non lo possiamo lanciare il pezzo del film perché siamo già in ritardo. Era il film Io e Caterina di Alberto Sordi, qualcuno lo ricorderà. Il tema è quello del robot che fa i lavori di casa. Ne vogliamo parlare con Paolo Dario, direttore dell'Istituto di Biorobotica della Scuola Sant'Anna di Pisa, perché voi, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo davvero pochissimo tempo, mi dispiace per aver ridotto lo spazio. Voi state meditando e progettando un robot che può aiutare gli anziani nei lavori di casa. Per fare che cosa, professore? Ma in realtà non solo in casa, anzi nella città o nei paesi, quindi per aiutare diciamo, una persona anziana a mantenere una maggiore autonomia a casa propria, ma anche a trasportare oggetti, ad esempio sacchetti della spazzatura dal proprio appartamento giù in piazza, oppure a ricevere la spesa o medicinali in giornate come queste che stiamo vivendo noi in Italia. Difficili. Avete già un prototipo? Quanto tempo ci vorrà per avere un risultato? Ne abbiamo diverse, in realtà sì. Il nostro progetto che segue altri è partito il 1 gennaio, dura 4 anni e in questo contesto svilupperemo, o meglio testeremo, perché molti di questi robot sono già disponibili, appunto una serie di servizi sia nella casa, noi le chiamiamo tridimensionali, cioè proprio, ed è una novità se vogliamo a livello mondiale, cioè far sì che le persone che ovviamente ne hanno bisogno e sono numerose chiaramente sia a casa sia. Va bene, noi dobbiamo fermarci professore perché qua siamo fiscali giustamente con la chiusura del programma. Buona giornata a tutti, ci risentiamo domenica prossima, grazie.